sento la luce del cielo mentre passeggi con me. Come son belli i tuoi occhi quando mi guardi così. Occhi neri e cielo blu, mille stelle e un mandolino. Questa notte